Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Invasion. Sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Non delegare, partecipa! Insomma, sempre presente la voce di Mastello, anche in differita. E 21 e 17 minuti primi, non ce la facciamo da queste parti ad essere puntuali. Non è possibile. Beh, iniziamo passando così in sottofondo Overkill dei Motorhead. Visto che oggi è scomparso Filthy the Animal, batterista storico dei Motorhead. Ricordiamo brevemente i contatti della radio, quindi il sito www.ondarossa.info, sito attraverso il quale ascoltare la radio in streaming. Quindi oltre gli 87.9 in FM della banda romana e laziale. Sito attraverso il quale rimanere aggiornati con le varie corrispondenze che vengono registrate nell'arco della giornata, i podcast delle altre trasmissioni. Sito attraverso il quale potete sostenere la radio, quindi andando a cliccare su Sostieni. Lo stiamo dicendo da qualche tempo. Situazione, insomma, finanziaria della radio. Abbastanza difficile, non abbiamo mai navigato in acque. No, beh, ogni tanto mi blocco, no, è tutto regolare, non ci fate caso. No, dicevamo appunto, la situazione finanziaria della radio è più difficile che mai ultimamente. Stiamo facendo veramente facendo fatica a far quadrare i conti. Quindi l'invito che facciamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici è appunto di sostenere questo progetto che nasce libero nel 1977. Una radio che per scelta, per che per mantenere il suo status di indipendenza. Campa grazie al libero sostegno degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Invitiamo pertanto andare a cliccare su Sostieni, insomma, sarete indirizzati alla pagina PayPal. Vi invitiamo a venirci a trovare le iniziative. Più tardi, insomma, lo ricorderemo l'appuntamento che ci sarà domani. Sempre attraverso il sito potete sostenerci acquistando le varie autoproduzioni. È uscita oggi, tra l'altro, non so se è stata già annunciata, la nuova Scarceranda 2016. Quindi potete venirci a trovare in radio per acquistarla. Tutti i giorni fino alle 21 veniteci a trovare in radio, insomma, prendete la vostra copia. Nonché potete sottoscrivere attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185 Roma San Lollo. Ricordiamo l'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. Nonché l'email della trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. Un altro modo per sostenere la radio è questo è un invito che facciamo a tutte le band, insomma, che vogliono diffondere il proprio materiale attraverso il banchetto della radio. Quindi potete sostenerci inviandoci le vostre autoproduzioni, saremo ben felici di farle passare sul nostro banchetto attraverso le iniziative. Insomma, un modo per farvi conoscere e per sostenere la radio. Il numero di telefono 0649 1750. Ed è giunto il momento di presentare anche l'ospite di questa sera, che ci è venuto a ritrovare dopo un altro paio di esperienze, tra cui una personalmente abbastanza mistica. No, vabbè, è stato il concerto che ha fatto qui live dagli studi di Radio Onda Rossa con il suo progetto Cassandra. Buonasera, Claudia. Buonasera a tutti. No, vabbè, per me è stato abbastanza liberatorio quel concerto. Non lo so, meno male. Sì, come dire, sì, liberatorio. Liberatorio, dici, che cioè, non credevo fosse possibile mettere in fila così tante frequenze e suoni. Sì, sì. E invece è possibile. E poi, vabbè, un'altra volta sei venuta a proporci un po' di cosette che ci ha portato. Abbiamo fatto già una scaletta nello spazio di 25 o'clock, ricordo bene. Esatto. Sì. Con i vinili, ma poi. Con i vinili, però. Le forze oscure erano contro di noi, e quindi. Vabbè, ci siamo arrangiati. No. Beh, pure stasera le forze oscure. Considerando. Sì. Ma dici, cioè, un binomio. No, dico, vabbè, considerando che un mese fa più o meno mi hanno rubato tipo i CD dalla cioè, sì. Sai, ti aprono la macchina per non rubarti niente, poi ti rubano i CD, insomma. Cioè, dei ladri con del gusto musicale. Però particolare. Sì. Perché? No, niente, quindi hanno aperto la macchina e ti hanno preso, che ne so, tipo i CD, sì, dei pezzi di core, tanto rimane il tema di nostro tormentone. No, vabbè, quindi sono venuta con un po' di roba. No, anche perché poi ti spiegavo che sì. Ultimamente si fa, no, ma roba più nuova, no? Stiamo un po' sul DIY moderno, no? Sì, giustamente, sì. Perché stiamo ancora a ricordarci del passato. Il problema è che esce quasi tutto ormai in vinile e cassetta. È raro che roba nuova. Ma anche solo cassetta? Cassetta? No, dico. Solo cassetta. Anche certo. Solo cassetta. Che, cioè, io poi. Cioè, tipo la roba mia attualmente esce solo in cassetta, per esempio. Cioè, no, no, perché si era fatto un tempo magari a recuperare il piatto, no? Cioè, sì. Diciamo che sono supporti che negli ultimi anni erano andati un po' scomparendo e quindi qualcuno magari con un po' di fatica è riuscito a recuperare un piatto, invece no, adesso c'è questa nuova ondata delle cassette, c'è l'internet. E infatti ne abuseremo bene. Come sempre. Vabbè, comunque. Sì. Questo non svilisce la grande qualità della grande musica che metteremo nella prossima ora. Sempre nel segno nefasto dell'oscurità e delle presenze diaboliche che saranno contro di noi. Quello sicuramente, ma proprio nella vita. Vabbè, insomma, ci sono sempre delle entità che remano contro di noi. Sì. E anche per dire che non metteremo reg. No, proprio no. Cioè, almeno non ne sono capace, per carità, eh. No. Cioè, con tutto rispetto. Infatti era per dire che noi però andiamo a imbattere, non certo. Innevare. Ecco. Beh, questa mi è piaciuta. Eh? Non avevo capito la sottilità. Insomma. E vabbè, ci abbiamo pronti i Leviathan. No, vabbè, sì, no, perché squillano, esatto. Forse per lamentele. E Leviathan, probabile. Sì. LVNTHN. No, che adesso hanno contratto il nome alla consonanti, perché vabbè, dopo un po' i gruppi cominciano a impazzire quando scoprono che altri gruppi si chiamano come loro. Mm-hmm. Quindi ti cominci a inventare, ma lo feci anch'io con Godog o l'altro progetto che ho. E quindi ti comincia a inventare una serie di cose improbabili per non avere il nome uguale a quello di altri gruppi, ma tanto voglio dire, cioè, vabbè, non è che te chiami Duran Duran, cioè, vabbè, magari cambierò nome pure alla trasmissione, va bene. E a parte questo, sono un gruppo giovine, cioè nel senso suonano da un po', qualche anno, però so piccoli, so giovani, fanno sto miscelone tra post, hardcore, screamo, crust, blast, beat, c'hanno pure delle virate secondo me un sacco black metal, così. Bene. E scuri, emotivi, ieri al Verme hanno fatto concertone a volumi molto moderati. Ci piace. E ci piacciono, cioè almeno a me mi piacciono tanto, li proprio li inserisco in una dei miei pupilli, dei giovincelli che fanno DIY. Bene, no, pare fatta apposta, no, però è del tutto naturale la scaletta. No, iniziamo con i Leviathan, che avremo ospiti in una serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Ecco, lo diciamo, il venerdì 11 dicembre, poi più avanti la definiremo un po' meglio. Sarà una serata di presentazione di Scarcerand, quindi ci sarà la cena come di solito. Che possiamo fare, insomma, sarà al Forte Prenestino, alla sala concerti, Leviathan e Kuro Kori, che è un duo col contrabbasso e batteria da Firenze, se non erro, e i Rattlekönig, che sono la nuova incarnazione dei Destroy Your System, e i Cenere X Cenerix, sacco di X. E vabbè, e noi ci sentiamo in Leviathan. Allora, Leviathan, qui li abbiamo ascoltati da, da uno split a quattro vie, come si dice, no? Sì. Con Kratzer, Ra spina, e Pan. Come? Niente. Ok. E quindi tre gruppi tedeschi. Sì. I Leviathan che stanno partendo in tour vanno sono pure in Germania? Sì, oggi. Sì, fanno un giro in Europa con i Macerie, che è un altro gruppo figlio di tanti altri gruppi della Firenze da bene. No, della Firenze, insomma, con Ivan Lo Mauro al basso, per chi conosce già Carlos Dunga, DeLorean, eccetera. E il buon Guazzini, che suonava con gli Architecture of the Universe fino a un po' di tempo fa, facevano tutt'altra roba, insomma, quando andava il post-rock. Non so se qualcuno si ricorda il periodo in cui andava il post-rock in Italia. E niente, quindi partivano con loro e facevano un giro abbastanza importante, 17 giorni in Europa, squat, circoli locali. Sono partiti ieri con la prima data nel mio posto qui a Roma, che è il Dal Verme, dove sono sempre di casa, e oggi andavano a Milano da Giuditta. Ah, hai capito, vedi? Salutiamo, credo. Giuditta. Sì, al Boccaccio, in realtà a Monza. E poi da lì partivano e continuavano, facevano un giro Germania, Est Europa, via dicendo. Ma cioè, quanto è facile organizzare una, generalmente, senza, per un gruppo come i Leviathan, che insomma non fanno l'hardcore classico, che può essere più insomma orecchiabile, oppure che è più conosciuto, quanto è facile per i Leviathan e gruppi con queste sonorità suonare in giro? Ma ormai non credo che ci sia più, per fortuna, tutto questo divario tra i generi, in quello che è l'hardcore nel senso più ampio del termine, il punk, hardcore, garage, proprio preso nel più ampio senso della questione. Io penso che alla fine i contatti siano quelli che anche in Italia da... Sì, forse era una cosa più localizzata all'epoca, adesso è un pochino più, come posso dire, istituzionalizzata in Italia in particolare, ma anche nel resto d'Europa, roba un pochino più poster, core, scream, di questo tipo qua. Ma comunque è un genere che è un'evoluzione normale di quello che è stato l'hardcore, quindi che comunque nasce all'interno di quello che sono gli squat, centri sociali, un certo tipo di disagio, lo possiamo dire, di base delle persone che lo fanno. Quindi non bisogna per forza fare il tupa tupa classico, ci si esprime anche in altri modi, ed è una cosa che prima o poi entra anche perché le generazioni cambiano. Quindi se per alcune generazioni un certo tipo di musica è venuta naturalmente, l'evoluzione di un certo tipo di genere è venuta secondo me naturalmente anche a livello tematico politico. La politica magari non si fa più col testo in sé, riferendoci a una cosa politica specifica, ma anche parlando di una dimensione personale in un certo modo con cui si fa politica, perché insomma non diciamo soffro tanto, amore, bla bla bla, magari lo diciamo in un altro modo, e anche solo quel dirlo in un altro modo denota una sensibilità e un disagio un pochino più ampio a livello sociale, sentimentale, emotivo. E quindi penso sia, è politica anche quella. Quindi come c'è stata un'evoluzione per tanti generi, dal punk al post-punk, uguale nell'hardcore. Quindi penso che un gruppo come Leviathan, che oltretutto si adatta, è giovane, ha voglia di girare, eccetera, si prende il furgone e si parte. I contatti ci sono, la rete c'è ancora e ci si aiuta, insomma. Bene, bene, e ci abbiamo pronta un'altra traccia, Claudia. Una traccia però di un gruppo disciolto, sciolto. Di cui ti posso dire però che il batterista è il Berna degli ultimi, quindi surprise per chi magari è abituato a sentirlo suonare con gli ultimi. e suonavo pure in altri gruppi di quella che era la scena, diciamo, del viterbese, vabbè, manziana, perché comunque l'Evidan pure siamo di Manziana, ecco, mi ero dimenticata di dire questo. Quindi dov'è il link? Il link è questo, è la saletta di Manziana che è stata tenuta da Curzio, adesso sta in ristrutturazione, si spera, perché ci sono stati dei problemi quante, strutturali. Quante cose ritornano, eh? No, già, e quindi parliamo sempre un saluto pure a Curzio. Un saluto pure a Curzio e anche al Secchetto. E insomma, niente, quello che volevo dire è che io sono nella conoscenza dell'Evidan tramite i miei amici Desperate Living, quindi Massimo, Piddu e Berna, perché condividevano la sala. Dicevo, senti di questi che sono bravi, erano bravi. E poi l'abbiamo mandati da Valerio dell'Ombre Lobo a registrare, ovviamente, che è andato subito pure lui tutto sommato in fissa. E se una persona così tanto di vario d'età ancora c'ha voglia e va in fissa con certi gruppi, ci sarà un motivo. E niente, invece loro erano un gruppo un pochino più vecchio, un pochino più maturo, e secondo me uno tra i migliori gruppi del genere degli anni 2000, insomma dal 2005 in poi, per capirci. Questo che andiamo ad ascoltare è un CD che avevo in macchina, che non mi hanno rubato, ed è l'Immaterial EP del 2007. Ci ascoltiamo la prima traccia, che è proprio Desperate Living. E niente, buon ascolto. Insomma, da Manziana anche loro, Desperate Living. Esatto, no, da Manziana no, però no, insomma, vabbè, più o meno insomma, dalla saletta di Manziana. Ecco. E no, insomma, mi incuriosiva questa, parlando prima dei Leviathan, adesso Desperate Living, e più avanti insomma passeremo altre cose. Mi chiedevo quanto poi, insomma, cioè, quella domanda che facevo pure prima, quanto è facile organizzare un concerto dei Leviathan, ad esempio, di generi che non sono di grande richiamo, no? Cioè, a Roma va tanto lo street punk, che amiamo, insomma, non abbiamo niente da dire, insomma, però sai, spesso ti ritrovi a vedere concerti nei posti occupati, dove c'è il gruppo street punk, il gruppo rock and roll, quindi una sonorità un po' più danzereccia, oppure più easy listening, no? Mentre magari la cosa bella di entrare in un posto occupato è andare a scoprire un gruppo giovane di sonorità che non è non c'è allegria. Sì, anche insomma, però possiamo dire sì, anche quello, cioè non non lo so, cioè il bello è pure entrare in un posto e scoprire un qualcosa, no? Cioè un genere che tra virgolette è ostico e non sarebbe neanche di grande successo nella costruzione. Ma sai, allora, il discorso su sulle realtà occupate è molto lungo. Certo. E anche molto vasto, nel senso che le dinamiche sono su per giù le stesse in ogni città. Ora io non mi permetto magari di parlare di tutta l'Europa, non sono così esperta, ecco, però su quella che è la realtà italiana magari un po' sì, un po' di più. Le dinamiche a me sembrano super giù le stesse in una città come Roma, in una città come Milano, in una città come Torino, in una città come Bologna, tanto per prendere le quattro città cardine più grandi e più attive in cui si sono sviluppate delle scene in maniera un pochino più solidale, ma non ora, insomma io comincerei a parlare di fine anni 70 e eccetera. Su Roma io ti posso dire che i posti occupati sono stati lo spazio che ha dato spazio, come era giusto che fosse, negli anni insomma 90 a tutto quello che era il movimento hardcore, insomma fine anni 80 inizio anni 90, quello che era il movimento hardcore che cominciava a nascere a Roma, che non trovava spazio nei locali o in altre realtà. Quindi all'inizio sono stati proprio luoghi cardine, ed è stato così in maniera abbastanza forte per quanto riguarda magari realtà più squat legate ai compagni anarchici, rispetto magari a realtà un pochino più, come posso dire, di matrice comunista, no? Permettetemi di dirlo. Però comunque un posto anche come il Forte Prenestino era un posto dove si facevano concerti, poi a un certo punto anche di un certo livello, a livello alternativo, insomma si vedevano dei gruppi importanti anche dell'hardcore che passavano, no? Apro una parentesi, scusami. Sì. E tempo fa sono stato a vedere il documentario che è Italian Punk Hardcore. Sì. È stato fatto c'è stata questa presentazione all'infoshop La Talpa del Quarticciolo, e è stata portata una mostra di locandine e mm-hmm. manifesti di tutti i concerti che si organizzavano negli anni 80 a Roma. Vabbè, una cosa che mi fa molto piacere, essendo insomma trasmettendo qui da Radio Onda Rossa, metà dei concerti erano organizzati da una trasmissione che non aveva un titolo, ma si chiamava Trasmissione Punk Anarchica di Radio Onda Rossa. Mm-hmm. Metà dei manifesti erano organizzati da questa radio, e erano tutti gruppi underground che venivano a svolti insomma all'interno del Forte Prenestino. Quindi veramente un posto dove si dava spazio alla musica underground sconosciuta. Assolutamente sì. Non so, mi ha fatto riflettere, insomma, da qui nascono queste chiacchiere. Ma che la matrice sia quella, secondo me è assolutamente cioè, non solo è banale, ma è assolutamente così, nel senso che in un'epoca, cioè noi viviamo in un'epoca anche fuorviante, nel senso all'epoca gli spazi erano quelli perché dovevano essere quelli, anche a livello politico, non al locale, ma che gliene fregava di fare un gruppo che oggettivamente, ma è dei relitti, no, permettete di dirmelo, tra tantissime virgolette si potevano andare a vedere. No, io non voglio voglio la gente sia a vedere il concerto, la cover band, la cosa un po' italiana, cioè. Poi ovviamente nel corso del tempo le realtà sono diventate di più, quindi alcuni locali si sono aperti, alcune associazioni si sono aperte a fare anche concerti. Io mi ricordo quello che era il Traffic vecchio, si chiamava prima Sonica e ancora prima non mi ricordo, e però il Sonica fu uno dei primi per esempio ad aprirsi a fare dei concerti hardcore negli anni, mi pare già era ancora anni 90. E quello perché? Perché forse piano piano la cosa funzionava, raggruppava gente, insomma, comunque creava dell'assemblamento di persone, e quindi qualcuno ci ha visto anche, possiamo dirlo, un minimo di business. Poi che questa cosa sia assolutamente stupida, perché non, stiamo comunque parlando di cifre di persone abbastanza irrisorie, però insomma funzionava, quindi magari qualche locale ha cominciato ad aprirsi, eccetera. E il discorso qual è stato? È che poi, ma proprio a livello di storia politica, è cambiato tutto. Quello che poteva essere il contrapporsi, ma io ti dico una banalità, ma nella stessa città di Bologna, ora rimanendo sempre in tema di quello che poteva essere il punk, eccetera, vedevo l'altro giorno un documentario su Disciplinata, un gruppo di Bologna che magari adesso osannano tutti come è. Però era un gruppo che non riusciva ad esibirsi in nessun posto, perché appunto, lo dicevano loro stessi, rischiamo di prendere le botte sia dai fascisti che dai comunisti. Quindi, come dire, adesso è tutto più sdoganato, da. Quindi lo street punk, lui, quello che è normale che oggi sia più sdoganato. È normale sia più sdoganato perché, come dici tu, da un certo punto di vista è anche un genere che è popolare, cioè, ma popolare nel senso appunto di presa su una massa di persone, nel senso, se io canto una cosa che è orecchiabile e dice uno slogan, che poi sia giusto o non sia giusto, sia condivisibile o non condivisibile, ha sicuramente una presa più veloce su delle persone che magari soffrono semplicemente un disagio. È ovvio che se poi invece metto una cosa come Leviathan, la cosa diventa pure un po' intellettualoide, cioè lo possiamo pure dire, ed è pure normale. Cioè io mi ascolto di tutto, da quando ho 15 anni mi sono ascoltata in Abbat, come mi sono ascoltata altra roba, come sono ascoltata appunto Disciplinata, come sono ascoltata altre cose. È ovvio che in Abbat li voglio bene a livello proprio ancestrale, perché senza quella cosa non si sarebbe andati avanti, però a livello musicale per me c'hanno un limite, mentre per altre cose che possono piacere a me magari non gli interessano. È normale che una cosa più orecchiabile, più semplice funzioni di più e sia anche più divertente, perché comunque non ci dimentichiamo che quando vogliamo uscire e andare a vederci un concerto non necessariamente ci vogliamo sparare gli aghi in vena, cioè nel senso magari ci vogliamo anche distrarre e divertire, quindi non ci vedo niente di male in questo. La cosa forse preoccupante, su questo posso venire al tuo discorso, è che oggi come oggi paradossalmente diventa più complicato organizzare dei concerti di un certo tipo all'interno di spazi occupati, perché magari si sono create delle barriere che magari sono date anche da un essere contro, dell'essere contro, dell'essere contro, per quanto riguarda alcuni spazi per esempio di matrice un pochino più anarchica, un pochino più di un certo tipo, cioè magari qui facciamo solo crust, facciamo solo determinate cose perché altre cose sono così, sono hipster, sono fighetti, oppure non ci piace, non ci interessa, eccetera. Quindi magari c'è chiusura, il famoso suonano sempre gli stessi gruppi. E dall'altro, in posti più grandi dove tu c'hai anche una struttura che comunque in qualche modo va tenuta su, ora che non ci siano spese, che uno possa essere polemico rispetto a del lucro tra virgolette che si può fare, che poi comunque parliamo sempre di un lucro molto relativo, cioè stiamo sempre a parlare magari di auto di un autoreddito, insomma. Però ci sono delle spese, cioè non è che campiamo tutti d'aria, certo, qua certo. Quindi è normale che certi posti occupati ci abbiano delle spese, quindi puntino semplicemente a fare delle cose coerenti politicamente con le loro idee, ma che abbiano una sicurezza. Quindi ecco, veniamo a delle cose come appunto delle attività più legate a concerti come legati allo street punk, oppure non so, possiamo prendere una realtà come Strike, che magari ha la possibilità di fare due cose, o gli interessa di più, c'hanno insomma la locanda, uno spazio molto piccolo, quindi come ce l'ho io al Verme, no? Dove per riempirlo comunque alla fine ti bastano 80 persone, e allora lì magari appunto cedi lo spazio a persone che gli va di organizzare cose anche più punk, più personali, e vai. Certo, poi è diverso, tu lì comunque ti vai sempre a scontrare con un collettivo, ti devi sempre inserire in un collettivo perché è così. Poi no, è normale sia così. Poi io penso che la fortuna moderna sia il fatto che magari poi trovi un posto come il Dal Verme, non lo so, mi fa dei cenni, non sconci, era voleva una sigaretta, dei posti magari come il Dal Verme, ma perché noi applichiamo un'idea di base che è una coerenza qualitativa politica, poi anche sperimentale, cioè a noi per esempio interessa fare della roba sperimentale anche più di roba intellettuale, però siamo aperti, cioè se viene un ragazzo X che mi chiede posso fare questo concerto, ma sei convinto? Sì, vabbè, lo facciamo insieme. Però è più facile, cioè quello che ti voglio dire, la cosa è semplice, tu arrivi, parli con me, io parlo col mio socio che gestisce la programmazione, e tutto viene in maniera più naturale, più fluida, più semplice, perché è così. Però è un caso isolato, cioè se te vai da un'altra parte, cioè è tutto molto, viviamo in un momento dove tutto è facile e tutto è difficile. Però visto che tutto è facile e tutto è difficile, io volevo andare un po' pure a chiudere il cerchio, perché non è che uno deve parlare solo, cioè se sembra uno si lamenta allora degli spazi anarchici che fanno solo quel genere lì e di là è difficile per proporre la musica sperimentale. Poi io penso che i posti bene o male hanno tutti una loro apertura, insomma, quindi non quello che dico io magari è, cioè chi vuole proporre una musica sperimentale può andare nei posti e proporsi senza crearsi, insomma, a prescindere la barriera mentale di questo è così e questo è colà. Posso dire una cosa? Cioè secondo me dovrebbe essere così, partendo proprio anche dalle persone, io non lo so, nel senso che girando da sola e venendo da quando giro con Cassandra, per dirti, e comunque venendo da un certo tipo di estrazione, aiuto, sta accadendo tutto, mi viene spontaneo e non ho problemi a scrivere quando vado in giro a persone che fanno generi completamente diversi ai miei, che sono legati a posti occupati o cose, e sinceramente ci suono e gente è interessata, non è che non lo è. A volte molto di più dei posti che tra virgolette dovrebbero essere i posti deputati a un certo tipo di roba, ma perché poi in realtà per esempio quello che faccio io per me deriva naturalmente da quello che è stato l'hardcore, ed è inutile che qualcuno si impunta ancora a dire che è così, perché la maggior parte dei progetti che girano per quanto riguarda il noise sperimentale di un certo tipo, come nel resto del mondo, provengono da esperienze di tipo hardcore, perché è un'evoluzione normale di destrutturazione di quella che è la musica, di quello che è il messaggio musicale e comunque dell'intenzione politica anche che c'è dietro. Quindi non lo so, vedendo io una via così naturale, secondo me è solo una questione quasi di autobarriere che le persone si mettono, no? Prima ancora di provare a vedere, di provare a chiedere. Poi certo, niente è facile, penso, ma ecco, non, la situazione sicuramente a Roma è quella com'è in tutto il mondo, e in particolare in Italia, perché noi ci viviamo e la conosciamo meglio. Sicuramente lamentarci e dirci ah, questo non funziona, e di qua non va, e di là così, è la cosa più ovvia, lo facciamo tutti, lo faccio pure io, e per carità. Però forse potremmo anche dire che così male non ce la passiamo, soprattutto con un po' di inventiva e anche un po' di presa di coscienza, anche un po' di avere voglia di contaminare, di far di conoscere. Contaminare, ma soprattutto di non avere paura di andare, certo, dalle persone a dire oh, ma adesso vogliamo andare pure un po' anti, con tutto il rispetto appunto per lo street punk e per l'accordo newyorkese, era... cioè non è che se ascoltiamo tutti e se lo continueremo ad ascoltare, no era un discorso in generale, insomma stiamo parlando di musica di ricerca, insomma di evoluzione dell'hardcore. Sì, sì, sì, no, insomma, sarà sempre roba ovviamente di nicchia, però la nicchia è ancora meno nicchia di quello che sembra, insomma, vuol dire che magari 80 persone interessate ci sono e magari ce ne sono 30 che vanno al centro sociale che potrebbero diventarle. Ecco, io mi vorrei ricollegare mo a caso proprio, però tanto per, hanno chiuso Atlantide a Bologna da non troppo tempo, cioè l'hanno murata. E hanno murato praticamente un pezzo di cuore, penso, di un sacco di gente della mia età, di più grandi, di persone che hanno dedicato tempo e spazio portando roba anche abbastanza trasversale per quanto riguarda il discorso anarco-politico hardcore all'interno di quello che era uno spazio all'interno della città. E una delle cose più belle che è stata detta su questa cosa è stata detta da un ragazzo che non era mai stato ad Atlantide, che ha detto: io non ci sono mai stato, c'ho questa età, e la cosa che mi fa più rabbia è che mi hanno precluso la possibilità di poterla scoprire un giorno e di poter scoprire un giorno che cosa ci si faceva dentro. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi spesso ci basiamo su quello che è, cioè nel senso sul fatto che ah vabbè, mi verranno sempre quelle 50 persone interessate a queste cose qua. Questa è una cosa che ho notato pure al Dal Verme, e che forse è una delle cose che non mi ha fatto andare via in questi anni, nonostante le cose poi vadano bene per un lato, ma poi a livello economico, a livello di energie, non è che vanno sempre bene, no? Quindi uno c'ha dei momenti anche di dire: ma che sto a fa, ma dove stiamo a na, che stiamo a fa. E invece no, quando succedono cose come quella d'Atlantide, quando comunque poi ti rendi conto che nel tuo posto vengono ragazzi anche di 16 anni, dai 16 ai 20 anni, che non hanno mai messo piede a un concerto di nessun tipo, e si ritrovano ad ascoltare delle cose dallo sperimentale all'hardcore che loro non l'hanno mai vissuto, raga, perché noi abbiamo scontato che ormai questa che è tutto roba classico. Vecchia, no, magari c'è chi non l'ha mai sentito, quindi so, uno arriva, un ragazzo di 18 anni sente Leviathan, che magari hanno 5-6 anni in più di loro, ma come fui io quando ce n'avevo 15 che sentivo i ragazzi di 20-22 anni, 24 anni che suonavano, e dicevo: cazzo, ma questi suonano, ma dicono quello che vogliono dire, lo dicono in questo modo, non l'ho mai ascoltato, e dici: ok, mo comincio pure io a suonare, anche io voglio andare in giro in tour. E così si tramanda la politica, è così che si tramanda lo stile di vita, è così che si tramanda, perché poi alla fine stiamo tutti sulla stessa barca, tutti con i nostri problemi, un po' più problemi di quelli che possono essere la mulino bianco della società, ed è pure giusto trovare delle persone con le quali tu puoi parlare e puoi interscambiarti. Quindi quella è la cosa fondamentale, chiudere un po' su Atlantide è precludere a delle persone che vivono a Bologna, dei ragazzi che vivono a Bologna, di poterla scoprire. Questo è quello che dico. Quindi anche lì purtroppo che alcuni posti vi rimangano solamente per alcune cose, no, facciamo sì che non sia così, nel senso, poi magari non è neanche così. Quindi l'invito, insomma, siamo in chiusura della trasmissione, noi no, vabbè, come lo chiacchieriamo, sì, troppo. Sì, no, ma va benissimo. Vabbè, invitiamo insomma anche a chi ci ascolta a frequentare i posti occupati, i posti dove si fa musica sperimentale. Quello sempre. Andatevi a vedere un concerto invece di stare in piazzetta a San Lorenzo con le Peroni il sabato sera, perché siamo pieni, strapieni di roba, di concerti. Andate ai concerti, qualsiasi concerto, invece che sta per strada a fare un cazzo, e partecipate, insomma, portate le vostre energie, le vostre idee. Esatto. Va bene, senti, noi chiudiamo con un pezzo che, guarda, vabbè, chiudiamo proprio con i Grevians, che sono un gruppo anche questo ormai disciolto, di fine appunto anni 90 inizi 2000, sempre screamhardcore, post-hardcore, sono stati uno dei primi in Italia a farlo, un gruppo di Ciampino con una tipa che canta, quindi ci tenevo particolarmente perché poi le ragazze le comincio a vedere pure ai concerti sempre di più, che vogliono suonare e fare, ma comunque sono sempre state un pochino di meno E non è vero, perché tutte quelle che ho conosciuto, da Marcella a, cioè, so tipe veramente che mi hanno detto ok, vai, fallo pure te, tanto per rimanere sempre in tema, e loro sono un gruppo molto molto figo, e niente. Allora, tra poco per i saluti, Gravians nel vuoto. Parte dell'automatico Obophobic come l'acciaio che resiste, giusto, cioè vabbè, per caso così. Noi niente, abbiamo sforato di 10 minuti in quello che è lo spazio di Apostasia. quindi sono già pronti ad iniziare la nuova puntata Apostasia. Noi ringraziamo Claudia di essere venuta qui, ci ha portato, vabbè, insomma la scaletta era ben più lunga, poi abbiamo parlato come al solito perché io e Dario ci incastriamo nelle nebulose cerebrali. Esatto. Ok. Però insomma, vabbè, chiudiamo la nostra chiacchierata con, cioè, non ci lamentiamo troppo. Sì, vabbè, no. No, questi sono questi sono i trillini di benvenuto per Apostasia, che è già iniziato ad entrare negli studi di Radio Onda Rossa. Quindi grazie Claudia. Grazie Dario. Io niente, ti do un io rilancio con un nuovo invito, un'altra volta magari continuiamo a parlare un po' di più dei nostri incartamenti. Sì. Magari c'è pure Mastello la prossima volta, così sì. Poi proprio parliamo e basta. Sì, no, vabbè, cioè viene Mastello, niente, vabbè, dobbiamo cancellare la programmazione poi musicale. Grazie Claudia. Grazie Dario, grazie a tutti. A presto. Buonanotte. Oh vabbè, il prego. Buon proseguimento, che buonanotte. Certo. Buonanotte amici della notte. Andiamo a dormire. Marzullo. No. Rimanete sintonizzati e sintonizzate. Una nuova puntata di Apostasia tra pochissimo. E giusto, insomma, qualche minuto per rilanciare, anzi no, per lanciare, perché ad inizio della trasmissione non l'ho detto. Domani al Cinema Palazzo, un modo per sostenere la radio. Finanziamento Radio Onda Rossa. Esatto, come dice l'automatico. 04. Incontra Zero Calcare, fumetti, racconti, musica e video. Con Tamara Bartolini e Michele Baronio, Beppe Casales, Eleonora Danco, Riccardo Goretti, L'Aspro, Donatella Meli, Enrico Melozzi, Daniele Muglio, Erika Muraca, Paolo Pesce Nanna, Monica Perozzi, Threesome, Ferdinando Vaselli, Margherita Vicario, Zappastori e Lettura Tavole di Zero Calcare con Michele Botrugno, Chiara Gioncardi, Alessia Mendola, Giuseppe Ragone. Il tutto mixato e shakerato da DJ David. Tutto questo avviene venerdì 13 novembre alle ore 21 al nuovo Cinema Palazzo, proprio dietro la sede di Radio Onda Rossa a Piazza dei Sanniti 9A. Ingresso a sottoscrizione, riffa bici. E mettitela sta mano sul cuore, no? Una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio. E no, ricordiamo una cosa che non è detta magari nello spot, ci sarà Zero Calcare che potrà insomma disegnare per voi una tavola originale così live a vostra richiesta, quindi arrivate presto e a sottoscrizione della radio. È uscita Scarceranda 2016, Scarceranda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. È uscita Scarceranda... No, giustamente mi chiedevano insomma dettagli su questa cosa. Potete avere una tavola di Zero Calcare originale e nello stesso momento partecipare alla vita della radio, a sostenere insomma questo progetto che fa dell'autoproduzione, dell'autogestione. Per ogni agenda acquistata ne verrà spedita la sua identità e tenuto o una detenuta. Ci vediamo insomma tutte e tutti domani al Cinema Palazzo e a tra poco con Apostasia. Scarceranda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Stai ascoltando Radio Onda Rossa.